Oggi è la prima domenica in cui ci troviamo, ma in realtà ha il nome di seconda domenica della tenda, perché la prima domenica, che non era domenica, è stata ieri. È stata ieri con Angelo Fracchia e Gianluigi Nicola, e oggi invece con Chiara Mori, teologa, Biblista, biblista, biblioteologa. insegnante presso l'Istituto di Scienze Religiose di Fossano, insegnante anche in altro modo, perché sennò non camperebbe, Sì, immagino, perché se ci pensi di segno lettere. vivere, insegni lettere, ok. Nostra amica già da tempo della tenda, che è già venuta varie volte, che siamo sempre felici di sentire. Grazie a voi. Il tema di quest'anno, tema unico per tutti i relatori e le relatrici, è sulle orme di Gesù, vivere, testimoniare e annunciare il Vangelo oggi. Siamo all'ottavo anno, sì, ottavo anno, settimo anno, dopo abbiamo cominciato nel 2016. Quanto? 3 settimane? Sì, settimo anno dopo la morte di Don Giorgis, e continuiamo per adesso, finché possiamo, queste domeniche della tenda, questi incontri in cui cerchiamo, sulla base delle scritture, sulla base della Bibbia, sulla base delle scritture, di approfondire dei temi, ma soprattutto di conoscere un pochino questa parola che ci viene consegnata nelle scritture, e che può dire cose crediamo significative per la nostra vita, non tanto per sapere delle robe così, ma per cogliere qualcosa che ci aiuti a vivere meglio. Allora, cerco di parlare più forte. La relazione com'è fatta? La relazione è fatta in questa maniera qua. Il tema è il cammino dei discepoli nel Vangelo di Marco, ok? Poi ho anche un suggerimento per la lettura, facile facile, me lo ricordate alla fine magari? Ok, alla fine me lo ricordate, un librettino, facile facile. Su questo tema, da cui ho preso qualche spunto, che si può leggere? Niente di impossibile, eh? Niente, non è un tomo, non è un commentario biblico che ci sono più note che testo scritto. Quindi alla fine magari un suggerimento per la lettura. Come è fatta la relazione? La relazione è fatta in questo modo qui. Ho preso alcuni testi del Vangelo di Marco, che sono quelli che teoricamente dovrebbero essere in quella specie di arancio rosa. La prossima volta scelgo un colore diverso perché non si vede niente. Quello è il testo. E io ho preso una serie di brani dal Vangelo di Marco, che leggeremo giusto per ricordarli un attimino, che poi vengono commentati. La relazione è fatta esattamente in questa maniera qui. Ci sono dei testi che leggiamo, giusto un po' per rinfrescare un attimo la memoria, sono tutti testi che conoscete a memoria, però bisogna un attimino rinfrescare tutto, e poi c'è il mio commento. Posto? Ok, quindi è una cosa molto semplice. Sopra, invece, ho messo il titolo di quella sezione lì, cioè l'argomento di cui parlo in quella slide o nelle due o tre slide successive. Vi chiedo anche una cortesia perché il mio computer è un po' vecchiotto, quindi di solito nei programmi più recenti si vede la slide e si vede quella dopo. Qui non si vede e quindi un attimino alle volte mi interromperò un attimo perché devo vedere quello che c'è dopo, ok? Perché è un programma un po' vecchiotto. Quelli più recenti invece si vede la slide proiettata e quella dopo, e quindi per il relatore è un po' più facile perché sa quello che viene dopo. Sono 30 e passa slide, saperle tutte è un po' difficile. Allora, primo punto, il titolo del Vangelo. Un solo versetto. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Allora, io lascio perdere questioni esegetiche perché qua ci andremo avanti un'oretta solo su questo titolo, perché bisognerebbe spiegare perché è un titolo questo versetto, poi in alcuni manoscritti figlio di Dio non c'è, ok? È stato aggiunto probabilmente dopo, ma lasciamo perdere queste cose, che ve lo dico solo en passant. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Andiamo a commentare questo versetto e poi vi spiegherò perché è così importante. La traduzione più bella è inizio della buona novella, infatti Vangelo significa buona novella, questo lo saprete, Qual è questa nuova buona novella? La buona novella è che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Il primo versetto che trovate nel Vangelo di Marco è un titolo, ed è il titolo di tutto il Vangelo probabilmente. È vero che quando lo leggete non è in grassetto, non è separato dal testo, ma è tutto un blocco unico. Perché se voi aprite la prima pagina del Vangelo di Marco, non è separato dal resto, non è in grassetto, non è più grande. Ci siamo, è insieme a tutto il resto e quindi non si vede. Ma quindi, il lettore non fa caso che quello è il titolo del Vangelo. Non ci fa proprio caso perché graficamente non è evidenziato. Ci siamo. Però è il titolo, cioè spiega cosa lui andrà poi a esporre in tutto il Vangelo. Inizia quindi, si può dire anche fondamento, per chi si ricorda qualcosa di greco, archè, quindi fondamento, che è il Vangelo che poi lui scrive dopo, il Vangelo scritto, della buona novella. E questa buona novella cos'è questa buona notizia? Questa buona notizia è Gesù, che è il Cristo, in ebraico è il Messia, Christos è la traduzione in greco, è il Messia e il figlio di Dio. Nel primo versetto, il Vangelo di Marco, e solo questo Vangelo, non gli altri, spiega qual è lo scopo della sua opera. Lo scopo del Vangelo di Marco è quello proprio di illustrare questa professione di fede, cioè mostrare che Gesù è il Messia e che Gesù è il figlio di Dio e suscitare la fede in lui. Questo è lo scopo del Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è strutturato secondo questo principio che è esposto nel primo versetto. Lui scrive e vuole esporre che cosa? Vuole presentare Gesù come Messia e vuole presentare Gesù come figlio di Dio e vuole suscitare la fede nel lettore, un lettore che già sa qualcosa, non è un lettore proprio ignorante, che ignora tutto della fede, è un lettore che già sa qualcosa, diciamo. La struttura più semplice che viene data dal Vangelo di Marco, ne vengono date tantissime strutture del Vangelo di Marco, non mi c'è dentro, la struttura più semplice è questa qua. Gli esegeti dicono, dal versetto 14 del primo capitolo fino a 8 e 30, che è un punto fondamentale, che è la confessione di Pietro, e poi lo vediamo, l'evangelista vuole mostrarti che Gesù è il Messia. Fino a 8:30, quando Pietro dirà tu sei il Cristo, e poi andremo a vederlo, chi scrive cosa vuole presentare? Vuole presentare Gesù come Messia e vuole suscitare la fede nel Messia. Da 8:31 in poi le cose cambiano, perché chi scrive ti presenta Gesù non solo come Messia, ma anche come figlio di Dio. E questo da 8:31 fino a 16:8. Sapete che, forse qualcuno di voi lo sa, il Vangelo di Marco ha una cosiddetta finale che non è canonica, cioè ha una finale che in alcuni manoscritti dove parla delle apparizioni non c'è, perché è stata aggiunta dopo. Questo è evidente. Sapete che il Vangelo di Marco finisce in quella maniera assai sorprendente, che è la paura, il timore, la fuga dalle donne. Il Vangelo di Marco finisce in una maniera veramente geniale, secondo me, perché finisce in questa maniera qua, in 16:8. Ed esse, le donne, uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di timore e di spavento, e non dissero niente a nessuno, perché avevano paura. E così finisce il Vangelo, con una finale che lascia esterrefatti, ma che è un capolavoro dal punto di vista narrativo, sicuramente. Finisce con il timore, lo spavento e la paura delle donne, finisce esattamente così. Poi qualcun altro è andato ad aggiungere nei manoscritti le apparizioni del risorto, ma quella è un'altra mano, ok? Evidente come al sole che sia un'altra mano, anche perché è un collage di testi presi da altri Vangeli, quindi si vedono tra un mezzo. Questo en passant. Quindi abbiamo il Vangelo di Marco diviso in due, a spanne, diciamo. Da una parte la presentazione di Gesù come Messia, dall'altra la presentazione di Gesù come figlio di Dio. Ci siamo? A posto? Sì. Ok. L'annuncio del regno di Dio. E al versetto 1:14-15 avete l'annuncio del regno di Dio. Prego. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Anche qui non mi stavo a soffermare sul fatto che Gesù comincia a predicare dopo che Giovanni è arrestato, eh? E dove comincia a predicare? Non a Gerusalemme, ma in Galilea, da tutt'altra parte, tutt'altro territorio. Ci siamo. Non mi sto a soffermare su questo. E che cosa proclama? Il Vangelo di Dio. Il Vangelo di Dio che cos'è? La buona notizia di Dio. Che cos'è? Che il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. La buona notizia è chiaramente la prima parte. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Andiamo a guardare più da vicino questo versetto, perché è un versetto fondamentale, perché è l'annuncio del regno di Dio. Vedete che il titolo continua: l'annuncio del regno di Dio. E ricordatevelo, perché questo annuncio non finisce nel versetto 14-15 del primo capitolo, ma va avanti. Adesso lo vedremo. Sta come sottofondo anche i capitoli successivi, almeno fino al capitolo 8. Capitolo 8 del Vangelo di Marco è sempre un punto fondamentale, ricordatevelo, è un punto di svolta. Allora, l'annuncio del regno di Dio sta come sottofondo, come l'annuncio che Gesù è il Messia, tutte le pagine che trovate nel Vangelo di Marco, dal capitolo 1 fino al capitolo 8. Questo è il sottofondo di tutte quelle pagine lì. Allora, il testo, proviamo a guardarlo più da vicino. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Il tempo, lo sapete, molti lo sapranno, no? In greco esistevano due termini per dire tempo: il cronos, che è quello dell'orologio, cronografo in italiano, e dopo c'è il kairos. Il kairos è tutt'altro, è il tempo propizio, è il tempo opportuno. È un pochino come il tempo maturo. È un po' quando noi diciamo che le scelte maturano, no? Una scelta matura in un determinato tempo. Cioè, ci sono delle scelte nella vita che so io, un anno prima non riesce a fare, un anno dopo riesce a fare. Perché? Perché il tempo è maturato. È maturata anche la persona, chiaramente. Ma quello è il tempo giusto. Se lo facevi quella scelta un anno prima non andava bene. Se l'avessi fatta un anno dopo non andava bene neanche. Ok? Quello è il tempo opportuno, il tempo maturo. Ci siamo? Allora, cosa ci dice questo versetto? Che il tempo è maturato. E perché il tempo è maturato? Perché si è compiuto. Qui c'è un verbo che vuol dire riempire, colmare. Dovete pensare a una bacinella d'acqua, quelle proprio grosse, le mastelle, quelle da... perché una volta si mettevano i panni, quelle di plastica grosse, che sono riempite d'acqua. Okay? Il tempo è maturato, si è riempito, è diventato colmo, ci siamo? Come una bacinella piena d'acqua, ci siamo? Cosa significa? Che il regno di Dio si è fatto vicino, per quale motivo? Perché il tempo è maturato. Non poteva farsi vicino prima, e no, perché il tempo non era maturo, e ne poteva farsi vicino dopo, perché era troppo tardi. Il regno di Dio è vicino perché il tempo è diventato opportuno, era il tempo giusto. Il regno di Dio si è fatto vicino. Questa è l'azione di Dio. Che significa che il regno di Dio si è fatto vicino? Allora, come diceva il mio professore, il regno di Dio non è il regno di Savoia. Piemontese diciamo, non è il regno di Savoia. Il regno di Dio è una realtà, ma non è una realtà territoriale. È una realtà spirituale, esistenziale. Ci siamo? Il regno di Dio si è fatto vicino, ma c'è scritto si è fatto vicino, non c'è scritto è vicino. Vuol dire che si è avvicinato, ma il processo di avvicinamento non è ancora finito. Il regno di Dio, qui sotto c'è un verbo che indica proprio un movimento di questo genere. Il regno di Dio si è vicino, si è avvicinato, ma non è ancora del tutto presente. Il movimento non è finito, continua. processo di avvicinamento è costante, continua ad andare avanti. Ci siamo? Questa è l'azione di Dio. L'azione di Dio qual è? Che il regno di Dio si è fatto vicino. Perché poi c'è l'altro pezzo del versetto che è la risposta umana. Cambiate mentalità e ancoratevi nel Vangelo. Allora, visto che il tempo è maturo, il tempo è propizio, il tempo è maturo, ok? Allora questo è il tempo opportuno affinché tu possa cambiare mentalità. Questo è il tempo giusto per cambiare mentalità. E perché è il tempo giusto per cambiare mentalità? Perché il regno di Dio si è fatto vicino. L'altro pezzo ancora, siccome che il regno si è fatto vicino, devi cambiare mentalità e puoi cambiare mentalità ad una condizione. Anche qua c'è un verbo interessante, se ti ancori nel Vangelo. Vi faccio notare una cosa. Qua c'è scritto credete nel Vangelo, non c'è scritto credete al Vangelo. E la traduzione è giusta, perché questo è il bello di studiare Bibbia. Qua c'è scritto nell'originale. E voi direte, ma è tutto uguale? Eh no, tutto uguale proprio no, perché questo è un caso rarissimo in cui c'è scritto credete nel Vangelo. E quando ci sono questi casi molto rari, i biblisti raddrizzano tutti i capelli e le orecchie, anche perché è voluto, significa che è voluto da chi ha scritto. Credere al Vangelo significa credere in un contenuto. Credere nel Vangelo, ancorarsi nel Vangelo, è in italiano si dice, come se vi ricordate un po' di grammatica, è completamente di stato in luogo. Cioè ti devi mettere lì sopra, in un certo senso, ancorarti lì, in un luogo. Il Vangelo diventa quasi un posto nel quale bisogna mettere radici. Ci siamo? Occhio a queste cose, perché i biblisti appena le vedono subito le addrizzano le antenne, perché sono casi rarissimi in cui c'è questo uso e è un uso ed è fatto apposta perché chiaramente chi scrive vuole dirti qualcosa di specifico. Credere al Vangelo sembra un contenuto. Ancorarti nel Vangelo significa quasi una piattaforma su cui tu cominci a innalzare la tua vita. Ci siamo? Vedete che la buona notizia è il Vangelo ed è il fatto che il regno di Dio è presente, in qualche modo è vicino e si può avvicinare ancora di più. Ma l'avvicinamento da chi dipende? Dipende dall'uomo. Il regno di Dio non è completamente vicino perché dipende dall'uomo. Ci siamo? È l'uomo che lo fa avvicinare. Se proprio cambia mentalità e si radica nel Vangelo. Altrimenti il regno di Dio non è che si allontana, però non è nemmeno così vicino, sta fermo dov'è? Ci siamo? Posto fino a qua? Posto? Vedete che ho cambiato titolo. La chiamata dei primi discepoli, però siamo nell'orizzonte del regno. Perché quel versetto che ho letto prima, l'annuncio che il regno di Dio è vicino, me lo porto dietro nelle pagine seguenti. Poi cambieremo. O almeno fino al capitolo 8 me lo porto dietro. Qui è un testo famosissimo e la chiamata dei primi discepoli. Nell'orizzonte del regno che è appena stato annunciato. Quindi non è che io leggo il Vangelo, quando leggete i Vangeli, non è che ogni brano è a sé stante, sì, è anche a sé stante, ma bisogna ricordarsi quello che c'è prima, perché non è che il brano è isolato e quello che c'è prima ce lo si può dimenticare, ok? Qualcuno come lo legge? Grazie, il testo famosissimo, prego. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, venite dietro a me, vi farò diventare pescatore di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi, nella barca, riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Grazie mille. Testo famosissimo, ok? Il nostro tema è il cammino dei discepoli nel Vangelo di Marco. Abbiamo visto il primo passo, l'annuncio del regno. Quindi il discepolato ha come primo elemento l'annuncio del regno. Ci siamo? La buona novella dell'annuncio del regno. Secondo passo è la chiamata. Ci siamo? Questo è un testo famosissimo. Famosissimo, non mi ci sto ad addentrare più di tanto, è la chiamata dei primi discepoli. Vengono presentate due coppie di fratelli, anche perché, senza stare lì troppo, andarci dentro, che questa sera non ce la facciamo, ma io vi ho messo uno spazio qua in mezzo, perché i due testi sono speculari, sono praticamente costruiti nella stessa maniera. Sono uno la fotocopia dell'altro, pratica. Vengono presentate due coppie di fratelli, Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Come vi ho detto, sono due scene parallele, costruite nella stessa maniera. Come sono fatte? C'è l'incontro con Gesù dei due fratelli, c'è il loro nome, c'è la descrizione dell'attività, c'è chi dice che avevano una piccola azienda, è troppo, società è troppo, insomma, lavoravano nell'ambito della pesca, ed erano dei soci, c'era anche il padre o qualcosa di questo genere qua, ok? Poi c'è l'invito di Gesù, c'è l'adesione immediata dei chiamati, subito vanno dietro Gesù. Vi faccio iniziare a notare però un'altra cosa, il vide. Passando lungo il mare di Galilea, Gesù vide. Il primo elemento della chiamata è che Gesù vede, non è il chiamato che vede Gesù, è Gesù che vede quello che deve chiamare. Al contrario, la prima azione è Gesù che vede, l'iniziativa spetta a Gesù. La sequela inizia con il vedere di Gesù, vedere che ha un carattere di creazione. Per quale motivo? Perché questo incontro tra Gesù e il chiamato dà origine a qualcosa di nuovo, per quello ha un carattere di creazione, perché nell'incontro tra Gesù e il chiamato, in questa relazione, inizia qualcosa di nuovo, si crea qualcosa di diverso rispetto a prima, per quello ha un carattere di creazione. Vede, qualche nota ancora, i chiamati sono visti da Gesù nel mezzo della ferialità del loro lavoro, non è un'occasione speciale, quella nel quale avviene l'incontro tra i primi discepoli e Gesù. Stavano lavorando come tutti i giorni. Stavano lavorando monotonamente. Ce la faccio? Dietro le reti, a rassettare le reti, mettere a posto la barca e avanti. Nella noia del lavoro di tutti i giorni, Gesù incontra loro. Non è loro che incontrano Gesù, è il contrario. Vedete che poi la chiamata non è condizionata da uno status particolare. Sono le persone così come sono nel loro quotidiano. Non sono persone particolari, non hanno un incarico particolare, non hanno una personalità particolare. Più spirituale, più elevata, più dotta, più sapiente di altri. No, sono semplicemente le persone nella loro ferialità. La chiamata è conseguenza dell'annuncio del regno di Dio. La chiamata avviene perché prima c'è l'annuncio del regno, altrimenti non sarebbe possibile. C'è l'annuncio del regno prima. La vicinanza del regno rende possibile il fatto che Gesù chiami queste persone nella ferialità del loro lavoro, così come sono fatte. Non hanno nulla di eccezionale. La chiamata, attenzione, non veicola una serie di contenuti o precetti da seguire. Non è che Gesù gli dice, bene, vieni, fai questo. No, se mi vuoi seguire, queste sono le condizioni. Sì, dopo. Magari sì, dopo. Ma prima no. Cioè, non ci sono contenuti o precetti da seguire. Gesù invita un movimento a seguire lui, semplicemente all'andare dietro a lui, quello che Gesù invita a fare. In vista di che cosa? Però non è un seguire Gesù senza uno scopo, c'è una meta, c'è un fine, che è il diventare pescatore di uomini. Questa frase è un po' strana, questa espressione è un po' strana, pescatori di uomini che cosa indica? Indica chiaramente il riferimento alla professione che facevano prima e poi anche indica il nuovo compito, l'incarico futuro. Ci siamo? Cioè, quindi c'è sia il passato che il futuro. Gesù, nella sequela, invita a essere se stessi, perché questi pescatori erano pescatori, rimangono, ma si è spostato il livello in un certo senso. Il fine del loro agire è diventato diverso. Ci siamo? Non è che prima erano fatti in un modo, dopodiché, dopo incontrato Gesù, diventano tutt'altro. Prima erano neri, dopo diventano bianchi. Non è così. Sono sempre pescatori, ma della loro personalità, che permane, vengono invitati a qualcosa di diverso. Ci siamo? E tra le due cose, tra prima e dopo, una continuità c'è. Non c'è una frattura. Prima sei una persona e poi ne sei totalmente un'altra. Non è quello. Perché chiaramente la persona ha un valore, l'essere se stessi è un valore. Ancora, la chiamata dei primi discepoli, oh mamma mia, c'hanno scritto di tutto e di più, sto subito. Oh mamma mia, ma questi incontrano Gesù, lo conoscevano, boh, chi lo sa, non c'è scritto. Questi, Gesù invita loro a seguirlo e poi immediatamente dietro. Un po' paradossale, sinceramente, nessuno si comporterebbe in una maniera del genere. Un po' paradossale, forse questa adesione è un po' calcata, cioè chi scrive che calca sull'adesione immediata dei primi discepoli. D'altro canto, non c'è nessuna reazione emotiva, psicologica, a pressioni, dubbi, riflessioni che sarebbero normali. Nessuno cambia strada immediatamente, anzi se qualcuno lo fa dici ma forse c'è qualcosa che non va, ci siamo? E invece no, questa pagina di Vangelo ci fa vedere questi primi discepoli che seguono immediatamente Gesù, forse vogliono, chi scrive vuole calcare la mano sul fatto che questi immediatamente aderiscono alla proposta. Le pressioni, i dubbi e riflessioni qui non ci sono, ma saltano fuori dopo, e dopo saltano fuori tutte quante. Tutte queste cose nel proseguo del Vangelo saltano fuori tutte quante per intero, quindi attenzione, che se è vero che qui il narratore ce la vende come un'adesione immediata, dopo le cose non filano proprio in maniera così liscia. Altro passaggio, lo stare con Gesù, quindi che i passi del discepolato, abbiamo visto l'annuncio del regno, abbiamo visto la chiamata, dopo la chiamata c'è lo stare. Prego. Ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12. E dopo c'è l'elenco dei nomi. Okay. Sì. E non sto lì a dilungarmi perché l'elenco dei nomi non è esattamente uguale in tutti i Vangeli. Poi non mi sto neanche dilungare sul fatto che, attenzione, che nel Vangelo di Marco ci sono gli apostoli, ma ci sono anche i discepoli. Sembra quasi che il Vangelo di Marco sia fatto a cerchi, cioè attorno alla persona di Gesù non ci sono solo gli apostoli, ma ci sono anche i discepoli, ci sono le folle, come ci fossero diversi cerchi di adesione a Gesù attorno a lui. Mi sono spiegata? Diversi livelli di appartenenza. Ci siamo? Noi siamo arrivati a pensare, quelli che seguono Gesù sono i 12 apostoli. Questo criterio nel Vangelo di Marco lasciatemelo in pace, perché non è proprio così, ok? Ci sono gli apostoli, ci sono i discepoli, ci sono le folle, come ci fossero diversi cerchi di appartenenza, e non mi sto a entrare dentro lì, ok? Attenzione a quando leggete i Vangeli, a leggere ogni Vangelo per quello che è, cioè non andate a infilarci dentro concetti che in realtà provengono da un'altra parte, cioè da un altro Vangelo, okay? Quindi i 12 qui nel Vangelo di Marco sono gli apostoli, ma attenzione che dopo ci sono altri cerchi di appartenenza. Cosa mi interessava qui? Mi interessava la prima parte, perché stessero con lui. Lo scopo dello stare con lui è chiaramente poi mandarli a predicare il Vangelo, a scacciare i demoni, eccetera, eccetera. Perché lo stare non è fine a se stesso, ma qui mi interessava questo, lo stare proprio. I 12 vengono chiamati perché stessero con lui e poi fossero mandati in missione. Non si può andare in missione per conto di Gesù senza stare con lui. Non si può. Primario è lo stare. Primario per il discepolo è lo stare con Gesù. Per quale motivo? Per conoscere la sua persona. Altrimenti vai ad annunciare chi non conosci. Quello è il problema. Puoi annunciare solo ciò che conosci. Se non stai con Gesù, non lo conosci, annunci qualcosa che è frutto della tua inventiva e non dello stare con Gesù. Attenzione. Allora, abbiamo visto l'annuncio del regno, la chiamata, lo stare. Adesso cominciano i problemi. Perché è vero che gli vanno dietro subito, però adesso cominciano i problemi. La difficoltosa scoperta dell'identità del Signore. Infatti dopo, se non mi sbaglio, sì, ok. Nella prima metà del Vangelo, cosa succede? Che l'autore insiste sulla difficoltà del gruppo di cogliere la vera identità di Gesù. Nella prima parte, vi ho detto che il Vangelo di Marco era diviso in due, niente da fare. I discepoli fanno fatica a capire chi è Gesù. Fanno veramente fatica. Nella seconda parte, invece, quella che vi ho detto che parte da 8:31 e arriva fino alla fine, i discepoli fanno fatica a comprendere Gesù non come Messia, ma come figlio di Dio che muore in croce. La prima parte, vi ho detto, da 1:14 a 8:30, è dedicata a Gesù come Messia. E i discepoli devono scoprire la vera identità di Gesù come Messia e fanno fatica. La seconda parte, da 8:31, in mezzo c'è la cosiddetta confessione di Pietro, che vedremo quando lui dice che a Gesù tu sei il Cristo, e dopo Gesù fa il primo annuncio della sua passione, e Pietro gli dice no, ma figurati, tu non farai questa fine, lo prendi in parte e comincia a dirgliene quattro, e Gesù invece lo riporta in mezzo agli altri e lo rimprovera a sua volta dicendo vai dietro a me, lo vedremo, ok? Quindi la prima parte del Vangelo, dedicata alla scoperta di Gesù come Messia, crea un po' di difficoltà in questi discepoli, in questi apostoli che dicono che vanno dietro a lui subito. La seconda parte crea ancora maggiore difficoltà, perché stavolta non devono solo capire Gesù come Messia, ma devono capire Gesù come figlio di Dio, e ancora lì ci arriverebbero, ma è un figlio di Dio che muore in croce. E questo li disturba parecchio, perché finché comprendere Gesù come figlio di Dio ci sarebbero anche arrivati, ok? Figlio di Dio che muore in croce, no, le due cose non stanno nella mentalità degli uomini, non stanno molto insieme, perché se sei figlio di Dio vuol dire che sei potente, domini la realtà, la cambi, eccetera, eccetera. Se sei un figlio di Dio che muore in croce, c'è qualcosa che stona. Ci siamo? Chiaro fino a qui? Sono due parti. La prima, la scoperta di Gesù come Messia e le sue difficoltà. La seconda parte, ancora più difficile, Gesù come figlio di Dio che muore in croce. Attraverso alcuni episodi del Vangelo di Marco, che riguardano appunto i discepoli, il lettore cosa fa? Segue l'evoluzione del loro cammino, con maggiore o minore comprensione dell'identità di Gesù. Segue gli insuccessi dei discepoli, le loro difficoltà. È un cammino non ideale, segnato da alti e bassi. Potete pensare che il Vangelo è scritto per chi legge, e chi scrive, chiaramente, tiene in conto il lettore. Il lettore sta leggendo il Vangelo e ha visto l'adesione entusiastica di questi primi apostoli. Però nel proseguo del Vangelo, cosa fa? Vede l'evoluzione del loro cammino di fede. Non è perché i figli... Sì, è vero che prima non avevano avuto dubbi, riflessioni, momenti di pausa, paura, angoscia. Ma dopo l'entusiastica adesione, il lettore dice qua c'è qualcosa che non funziona. perché vede che fanno fatica a comprendere l'identità di Gesù. Vede i loro successi, le figuracce, le difficoltà. Vede che è un cammino che è proprio, non è proprio così ideale come ha iniziato. Ci sono degli alti, ci sono dei bassi, più bassi che non alti, ad essere precisi. A posto? Tanto chiaro? Ancora, andiamo a vedere tre punti, che sono tre punti chiave, nel quale, niente da fare, sti apostoli, questi discepoli, fanno fatica a scoprire l'identità del Signore. Sono tre figuracce proprio, tre belle figuracce che si fanno. E sono tre figuracce, tre difficoltà, che sono localizzate mentre attraversano il lago di Gennesaret, che poi chiama, il Vangelo chiama mare, perché il mare ha una pessima fama nella Bibbia, ok? È sede del mare di solito, mare ha una pessima fama nella Bibbia, per cui viene chiamato mare, in realtà è un lago, ok? E sono, guardate, queste tre traversate, sono tutte nella prima parte del Vangelo. Queste tre traversate di questo lago, nel quale sono ambientati dei episodi in cui i discepoli fanno fatica a capire chi è il Signore e si beccano anche dei duri rimproveri, se ne stanno tutti nella prima parte del Vangelo, nella quale il lettore vede, gli apostoli e i discepoli, che devono comprendere l'identità di Gesù come Messia. E nella prima parte abbiamo tre traversate, e non è un caso, e sempre durante le traversate vengono ambientati momenti nel quale loro fanno fatica, emerge la loro fatica di comprendere l'identità di Gesù e l'altro che li rimprovera. Ovviamente sono le occasioni di rimproveri più duri che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Sono i rimproveri più duri che vengono messi. E poi vedremo perché. Ce n'è uno al capitolo 4, uno al capitolo 6 e uno al capitolo 8, l'ultimo. L'ultimo proprio appena prima della svolta. Della svolta della confessione di Pietro. Andiamo a vederla. Io per semplicità ho riassunto un pochino il testo, perché il testo è un pochino lungo. Quindi andiamo a vedere queste tre traversate, nelle quali sono ambientati degli episodi segnati a difficile scoperta dell'identità del Signore. Primo episodio, l'ho riassunto. Gesù è sulla barca insieme ai discepoli per passare all'altra riva del lago. Il famoso episodio in cui dorme sui cuscini. Se dorme della grossa, a un certo punto si scatena la tempesta. Che fanno gli altri? E i poveri ti vanno là, lo scuotono e gli dicono sveglia per piacere. Sono in preda al panico e gli dicono maestro, non ti importa che siamo perduti? Gli dicono vabbè, non ti importa, non ti interessa niente, che vuoi che poniamo di già picco? Gesù interviene sulla tempesta, primo sgrida la tempesta, fatica, e poi risponde, perché avete paura? Non avete ancora fede? Perché avete paura? Vedete, paura e fede vanno insieme. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Primo episodio, proviamo a darci più dentro. Questa poi è la reazione dei discepoli. Chi è costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Chi è costui? La domanda è sulla identità di Gesù. Chi è questo? Che il vento e il mare gli obbediscono. Vedete che si chiedono chi è. Vedete che non è che ha capito sì e no. Ci siamo. I discepoli non sono chiaramente in grado di comprendere l'identità del maestro. Ma il problema è che questi qua l'avevano seguito, avevano sentito le sue parole e se non bastavano le parole avevano visto anche le opere. Sono in vantaggio rispetto a noi, anche al lettore e a tutti gli altri personaggi che sono citati nel Vangelo. Sono in vantaggio perché loro hanno seguito Gesù, hanno sentito le sue parole. Se non bastassero le parole, hanno visto le opere. Quindi sono in vantaggio sugli altri personaggi del Vangelo di Marco. E sono in vantaggio sul lettore e sono in vantaggio su di noi. Eppure, nonostante il fatto che loro siano in vantaggio, questi si domandano, ma chi è questo qui? Nonostante siamo al capitolo 4, insomma, di cose ne hanno viste. Eppure si domandano, ma chi è questo qua? Non hanno fiducia in lui, ma hanno paura, non si fidano. Seconda traversata. Gesù costringe i discepoli a prendere il largo e lui si ritira di notte su un monte a pregare. Quindi, la scena è questa. I discepoli sono una barca in mezzo al mare che è andata al lago. Gesù è da solo a terra, quindi gli uni sono in mezzo a sto lago, l'altro è a pregare sulla terraferma. A un certo punto, che cosa succede? Il vento è contrario, vede che il vento è contrario, fa fatica a remare. Gesù dice, vabbè, andiamo a dargli una mano a questi poveri disgraziati. Pensa bene di prendere la via più breve, anche lui, santo cielo, pensa bene di prendere la via più breve e decide di camminare sulle acque. Figurarsi gli altri. Cominciano a gridare credendolo un fantasma. No, poteva anche fare a meno di prendere la via più breve, ovvio che gli altri si spaventano, santo cielo. Comunque, lo vedono arrivare per dargli una mano. E non è che dicono, ah bello, sei arrivato a darci una mano, ma lo credono un fantasma. C'è proprio la parola fantasma nel Vangelo. Gesù cerca di rassicurarli, dice, vabbè, ho sbagliato, cerco di rassicurarli, ma il commento del narratore è fin troppo chiaro. Qua interviene il narratore, che è chi scrive, chiaramente, e che cosa dice? I discepoli non avevano compreso il senso della moltiplicazione dei pani, perché prima di questo episodio qua, che è la seconda traversata, c'è la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci. In Marco sono due, non è una. E prima di questa seconda traversata c'è esattamente l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. E allora il narratore che dice? E dice, sì, hanno visto Gesù arrivare come un fantasma, l'hanno scambiato come un fantasma, lui cerca di rassicurarli, ma il narratore che dice? Non avevano capito l'episodio della moltiplicazione dei pani, che era accaduto leggermente prima, perché avevano il cuore indurito, per cui nel momento della paura la loro fede vacilla più che mai. Hanno un commento caustico, perché hanno assistito alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, hanno assistito a quello, ma nonostante abbiano assistito a quello, nel momento in cui Gesù arriva a dar loro una mano, si impauriscono ancora un'altra volta e non hanno fede in lui. Per quale motivo? Perché il cuore è di coccio, o meglio la testa è di coccio, di solito il cuore è duro. Non capiscono e non hanno ancora fiducia, nonostante la moltiplicazione dei pani e dei pesci che è prima, ok? Notate, nel momento del pericolo, come nella prima traversata, la paura la fa da padrone, un'altra volta. È la paura che domina sulla fede, sulla fiducia. Un'altra volta. Posto? Pazza traversata, è la più simpatica. Traversata numero 3. Qua nel Vangelo mi faccio un po' attento perché è tagliato un po' male, cioè è messo giù un po' male, perché ci sono i titoli che sono stati messi dopo che non ti fanno tanto capire che questa in realtà è una traversata. Cioè, qua bisogna stare un po' attenti al testo. I discepoli stanno compiendo un'altra traversata, la terza. Ma la loro attenzione, più che alle parole di Gesù, sì, c'è un discorso di Gesù un po' strano sul lievito dei farisei, c'è un discorso un po' strano sul lievito dei farisei. Ma lasciamo da una parte. Più che alle parole di Gesù, la loro attenzione è rivolta a una constatazione molto più terra-terra, molto più prosaica, perché hanno dimenticato di prendere il pane e ne hanno un solo pezzo. Praticamente che è successo? Una cosa molto semplice, così sono partiti con la barca quando sono sulla barca hanno detto ups, non abbiamo da mangiare, abbiamo un pezzo solo di pane. E loro si mettono a discutere su sta roba, chi è che si è dimenticato il pane sostanzialmente, mentre Gesù sta facendo un discorso elevato e questi invece sono intenti dietro a una questione molto più terra terra. Anche qui Gesù arriva giù duro perché gli dice una serie di dure domande. Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? Non comprendete ancora? Notate che questo testo, ritorno indietro, qua prima c'è la seconda moltiplicazione dei pani. Ce n'è un'altra. Oh, questi qua si sono dimenticati il pane. A un certo punto avrebbero potuto andare da lui e dirgli, scusa, puoi farci il piccolo, il miracolo dell'altra volta? perché qua abbiamo combinato un pasticcio, porta pazienza, abbiamo combinato un pasticcio, non ci siamo capiti, tizio è stupido, quell'altro è una testa dura, quell'altro si è fatto i affari suoi, per piacere, vabbè che capita nella vita di tutti i giorni, per piacere il piccolo, non è che puoi rifare quello che hai già fatto due volte e ci risolvi questa situazione perché non abbiamo niente da mangiare, porta pazienza, sarebbe stata meno figuraccia. Invece si sono fatti la figuraccia proprio. Tra l'altro la figuraccia è ancora più evidenziata dal fatto che l'altro sta facendo dei discorsi elevati e questi discutono su un pezzo di pane che si devono dividere. Cioè. Quello che vi dicevo, i discepoli hanno assistito a due moltiplicazioni di pani, perché nel Vangelo di Marco sono due e non una, e stanno lì a discutere tra loro perché non ne hanno. Gesù li accusa di non capire, notate bene, non capiscono, perché discutete che non avete pane, non capite, non comprendete, è come se avete occhi e non vedete, cioè hanno visto tutte le sue opere, non bastassero le parole, ma come se vedessero non capissero. Secondo me hanno visto, perché dovevano portarlo se Gesù gliele ha già dato due volte? Ma nel Vangelo ho capito, però scemi non era. Sì, ma il Vangelo mi scrive tutt'altro, ma avrebbe scritto avevano fiducia che Gesù facesse il terzo miracolo, e invece questa fiducia non è mica randa, perché l'altro, cioè non è che vanno a dire, è come se avessero gli occhi ma non vedono, cioè vedono ma non capiscono, infatti gli passano davanti, diciamo. Non arrivano fino in fondo i fatti. Guardano ma non vedono, cioè non sentono le parole ma non entrano. Allora, porto pazienza per le parole, ma almeno i fatti. Gesù li accusa di non capire il suo annuncio, le guarigioni, i miracoli, gli episodi più eclatanti come il nutrire le foglie, non hanno aumentato la loro fede, cioè la loro fiducia in lui. Perché avessero detto, vabbè, ce lo siamo dimenticato, a ci pensa lui, se non altro è un gesto di fiducia, un po' opportuno, ma un po' opportunista, ma amen. Cioè, invece proprio, nemmeno quell'idea lì gli viene in mente. Gesù, come vi dicevo, li accusa di essere ciechi e sordi perché assistono alle sue opere, ma è come se non vedessero proprio. Non comprendono soprattutto che i gesti di Gesù, oltre alle parole, mostrano nei fatti che il regno di Dio si è fatto vicino. Perché quello, la fede, è esattamente questa cosa qua. Cioè i gesti che Gesù ti mostra, ti fanno comprendere che il regno è vicino, il regno di Dio attraverso di lui è vicino. I gesti di Gesù, i suoi miracoli soprattutto, le sue opere, mostrano che cosa? Il regno di Dio è vicino. Ci siamo? C'è anche un fatto che dico solo in passant qua sotto. Nel Vangelo di Marco e anche nei Vangeli, all'inizio Gesù chi è? Gesù è colui che mostra il regno di Dio. Ci siamo? Quindi è colui che annuncia il regno di Dio e che lo mostra nei fatti, nelle parole. Dopo la passione, morte, risurrezione, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, un po' di tempo, il Vangelo non è più il regno di Dio che Gesù annuncia e mostra, ma il Vangelo diventa lui. Mi sono spiegata? No, ricomincio da. Allora, nei Vangeli che cosa succede? Che all'inizio Gesù cosa fa? Mostra in parole, in opere, il regno di Dio e lo annuncia. E quindi la buona novella che cos'è? Il regno di Dio che Gesù mostra e annuncia. Con la sua passione, morte e risurrezione c'è un cambio, e anche con il proseguire della vita delle comunità cristiane c'è un cambio nella comprensione. Comprendono che Gesù non è solo colui che annuncia il regno, ma e quindi la buona non è solo colui che annuncia la buona novella del regno, ma è lui, il regno di Dio e il Vangelo, la buona novella, è lui. Ma ci mettono un attimo. Sono spiegata? Ok. Il perché dell'incomprensione? Perché non capiscono questo? E sono quelli che hanno aderito subito, sono quelli lì, sono sempre quelli che sono andati dietro alla chiamata di Gesù subito, sempre quelli. I discepoli, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, non sembrano cogliere più di altri l'identità di Gesù. Il paradosso è che invece nel Vangelo di Marco c'è un gioco, perché sono i personaggi minori, cioè i personaggi che so io, la donna ricurva o la donna sirofenicia, eccetera, eccetera, eccetera, sono i personaggi minori che invece colgono immediatamente l'identità di Gesù. Questo è un capitolo a parte che io non faccio, ma sono i personaggi minori invece che colgono immediatamente l'identità di Gesù, non i discepoli. Però le loro difficoltà sono importanti, perché? Perché il lettore cosa fa? Può imparare dagli errori dei discepoli, chiaramente. Può trovare conforto alle sue difficoltà di fede, ci siano. Il lettore poi sa dall'inizio che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio. Però un conto è saperlo e un conto è crederlo nei fatti. Quindi il lettore sì, inizia a leggere il Vangelo e sa che Gesù è il Cristo, sa che Gesù è il Figlio di Dio, ma la vera portata concreta di queste affermazioni ci vuole tempo e pazienza affinché entrino nell'animo umano, ci vuole fatica, ai discepoli ne sarà una dimostrazione. Quindi il lettore in un certo senso è confortato dagli errori dei discepoli, capisce che le sue difficoltà sono anche quelle dei discepoli, capisce gli errori che non deve fare, ma nemmeno si deve illudere che la, come si dice, la comprensione concreta dell'identità di Gesù sia qualcosa di facile. Non basta saperlo, bisogna farlo scendere nella propria persona e nei fatti. È un altro paio di maniche. Ci siamo? Allora, io qua saremo, questa è la prima parte, mi bevo un goccio d'acqua, 2 minuti di pausa, se è così tirato l'acqua come fiato, io mi prendo un goccio d'acqua, perché qua vedete che entriamo invece nella seconda parte del Vangelo. Finora ho fatto la prima parte, quella sotto il segno dell'annuncio del regno. Abbiamo visto l'annuncio del regno, abbiamo visto la chiamata, abbiamo visto il seguire, abbiamo visto le difficoltà dei discepoli. Adesso andiamo dall'altra parte, nella seconda parte, perché è un po' diversa. Allora, io bevo un goccio d'acqua, voi respirate un attimo. Se c'è qualche domanda, per carità, non c'è problema. Perché ad ogni piè sospinto nel Vangelo di Marco c'è questo subito. Allora, subito. Lui è una mania che c'ha, lui. Perché, aspetta, bevo un goccio d'acqua, se non si può. Non devi chiedere se abbiamo delle domande. Ma no, ma così diventa più vivace, sono una noia. Allora, Marco che scrive, non è che sia poverino. Chi per lui, perché sapete che i nomi degli evangelisti sono delle sigle, non sappiamo chi ci sia dietro. Chi scrive il Vangelo di Marco non è che sia proprio il genio, cioè, ha un modo di scrivere che non è proprio il non plus ultra. Delle sinottici il Vangelo migliore è quello di Luca, è quello scritto meglio. Addirittura si dice che il prologo, se voi andate a leggere proprio i primi versetti del Vangelo di Luca o i primi Vangeli di Atti, primi versetti di Atti, ok, quelli sono il greco migliore del Nuovo Testamento, e sembra che quasi lui abbia voluto dare spolvero delle sue capacità e poi si sia un po' abbassato. Ok, Marco, chi per lui non è che sia proprio il non plus ultra. Allora, poveretto, quando deve collegare una pericope all'altra, o ti mette una E, perché se tu guardi anche il greco c'è kai, cioè e, perché non è che c'aveva tante risorse, cioè non è che i connettivi li sapesse molto bene questo qua, e allora ti mette una E continua, oppure ti mette subito. Te lo mette continuamente, un'esagerazione, che un po' è sicuramente dare l'idea che l'azione avviene immediatamente, che i discepoli vanno immediatamente dietro a Gesù. Alle volte è perché non ha cartucce da sparare, cioè non è che sta dando. Hai capito? Perché è una mania, si dice, o la è o è subito, è un tusso, o è caio o è tusso. Dice, a ogni piè sospinto, un po' è per dare senso che l'annuncio del regno, l'annuncio di Gesù, chiaramente ha un seguito. E un po' è perché secondo me non sa, non sa come andare, non sa come collegare le varie pericopi, i vari pezzi. Hai capito? È suggestivo, perché avrebbe potuto mettere poi, come fanno i bambini, no? Sì. Ma sono andato a mangiare e sono andato, oppure poi sono andato, sì, poi ho fatto quello. Poi. Ma era lui subito. Subito. Lui l'ha subito capito. Infatti, se tu guardi una volta dalla traduzione, qualche se la saltano, qualche subito se lo saltano, perché cioè, è uno dietro l'altro, cioè li saltano poco perché sono diventata noia. Anche chi le, cioè, la traduzione non può essere troppo letterale, perché sennò chi legge capisce poco, cioè non scorre. Altre domande, questioni, chiarimenti? Però dal lato suo il Vangelo di Marco ha un pregio, se non è proprio scritto nel massimo del greco, ha un pregio che è estremamente concreto e gli piacciono tantissimo, è il motivo per cui mi piace tanto, è molto dettagliato, i dettagli, a lui piacciono tantissimi dettagli, fateci caso. Se avete una sinossi, leggete lo stesso brano nel Vangelo di Marco o in altri, il Vangelo di Marco bisogna leggerlo con proprio attenzione, perché lui è pieno di dettagli, è pieno di dettagli. E guai a perderseli, perché li mette apposta, è pieno di dettagli, di particolarità, cioè non bisogna proprio dar niente da scontato, perché è lui così e lo fa apposta. È pieno di dettagli, di sottolineature, e basta una parola, un verbo, al posto di un altro, ed è pieno, ma già di Marco è pieno di quello invece. Quindi se ha un greco un po' inferiore, ha però questa particolarità di essere molto concreto e molto molto molto dettagliato. Okay. Può leggere, grazie. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente, chi dice che io sia? Ed essi risposero: Giovanni Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. Ed egli domandò a loro: ma voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Anche qui un testo famosissimo, questa è la confessione di Pietro, che è esattamente al centro del Vangelo, perché siete al capitolo 8, i capitoli sono 16. Questo proprio in mezzo. Non mi ci sto a dilungare perché bisognerebbe starci le ore su questo brano. Gesù parte con i suoi discepoli e va verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo è a nord, parecchio a nord, sei quasi al confine, ok? Tra l'altro, sapete, tutti si dice, no, le Cesaree sono due, okay? Questa è Cesarea di Filippo, perché Filippo era uno dei figli di Erode, ok? Una è Cesarea marittima si trova sulla costa, qua invece siamo parecchio a nord, e lui, Filippo, aveva costruito questa città, ok? Uno dei figli di Erode, la famiglia di Erode, ed è una telenovela, non è niente a confronto della famiglia di Erode, è un disastro, perché sono tutti figli di Erode, tra l'altro sono tutti zii che sposano nipoti, la famosa Erodiade è una nipote in realtà, e si chiamano tutti Erode, giusto per facilitare la vita a noi, quindi è una famiglia terribile, uno dei, da studiare veramente terribile. Uno dei figli è proprio questo Filippo, ok? Chiaro a tutti, quindi attenzione quando leggete i Vangeli, si parla di Erode, di capire quale Erode è, perché tra l'altro si chiamano tutti Erode, ok? Quindi sono in una località molto lontana da Gerusalemme, proprio in un luogo così lontano, Gesù interroga i discepoli e dice loro: chi dice la gente che io sia? Rispondo Giovanni Battista, Elia, uno dei profeti, non sto a entrare qua dentro. Domanda loro: ma voi chi dite che io sia? E Pietro gli risponde: tu sei il Cristo. Allora, come l'ha spiegata a me? Quando ero: ah, bravo Pietro, che riconosci il Cristo, oh, che è pieno di spirito, hai capito che Gesù è il Cristo, hai capito tutto, hai capito che lui è il Messia, eccetera, eccetera, eccetera. A me l'ha spiegata così. In realtà non è proprio così. Pietro, riconoscendo che Gesù è il Messia, manifesta un reale progresso nella sua comprensione dell'identità del Nazareno, ma bisogna domandarsi che cos'era per lui il Messia e il Cristo. Zione, cosa ha capito? Zione, perché se non vedi noi, andiamo a mettere dentro il nostro pensiero. Noi, qual è la nostra idea? Che Pietro abbia capito quello che noi intendiamo per il Cristo. Attenzione a non fare queste operazioni, cioè bisogna leggere quello che c'è scritto. Che quando noi diciamo, leggiamo che Pietro afferma che Gesù è il Cristo, noi pensiamo alla nostra maniera, come noi intendiamo il Cristo. Invece lui ha capito qualcos'altro, non proprio quello che pensiamo noi. Lui cosa ha capito? Certo, qualcosa ha capito, perché c'è un reale progresso nella comprensione dell'identità di Gesù. Ma non è chiaro il tipo di messianicità che lui aveva in testa. Perché, di Messia ce ne sono più di uno nell'Antico Testamento, cioè nel senso ce ne sono più di uno nel senso che ci sono varie tipologie di Messia, c'è il Messia regale, c'è quello profetico, c'è quello sacerdotale, e avanti, ok? Lui cosa ha capito? Che tipo di Messia ha in testa? E il tipo di Messia che lui ha in testa, che non è il nostro, si capisce dai versetti che seguono. Grazie, me lo legge. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quello che aveva in testa Pietro lo si vede da quei versetti appena letti, lo si vede da lì. Sì, ha capito qualcosa della messianicità di Gesù, ma non ha capito tutto. Ha inteso qualcosa di corretto e qualcosa di scorretto. Le versetti che seguono sembra che egli abbia in testa un messia regale, forte, che vince sui nemici, perché nel momento in cui l'altro annuncia la sua passione e morte, la risurrezione sembra cadere, non essere presa in considerazione, perché sembra, vedete che capiscono, l'accento è più che altro sulla passione e morte, la risurrezione sembra, l'ha detta, ma sembra non entrare nel loro orizzonte. Pietro non lo vuole un messia che patisce e che muore. La sconfitta per morte violenta non fa parte dell'orizzonte mentale di Pietro. Il messia che lui ha in testa è un messia regale, forte, che vince sui nemici. Quando l'altro comincia ad annunciare la passione e morte, la risurrezione neanche la nomina, probabilmente neanche la sente, comincia a dire: ma qua c'è qualcosa che non va. En passant, gli annunci della passione, morte e risurrezione nel Vangelo di Marco sono tre. Questo è il primo. Okay. Tre volte Gesù annuncia la sua passione, morte e risurrezione. Questo è il primo, en passant. Andiamo avanti. Quindi, Gesù annuncia apertamente la sua passione e morte, ma Pietro reagisce duramente. Che fa? Basta andare a leggere. Pietro, allora, Gesù annuncia apertamente il comparresia, cioè nel testo, la sua passione, morte e risurrezione. Tra l'altro non è che si domandano che cos'è la risurrezione, no, l'accento va sulla passione, sulla morte, ok? Cosa fa Pietro? Lo prende di sparte e si mette a rimproverarlo. Ma Gesù si volta e guarda lui, ecco i dettagli del Vangelo di Marco, eccoli qua, si volta e guardando i suoi discepoli, cioè si volta verso Pietro, ma guarda anche gli altri, e quindi il riprovero non è solo per lui, ma è anche per tutti gli altri. Questi sono i dettagli, mai perdersi. Gesù si volta, rimprovera Pietro, ma contemporaneamente guarda gli altri, e che cosa gli dice? Va dietro a me, Satana. È la prima volta, è una delle rarissime volte che Gesù usa questo termine per una persona, rarissima. perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Bisogna andare a vedere quel va dietro a me. Della CEI vecchia c'era un'altra traduzione, Andrea, dammi una mano, c'era scritto, dammi una mano, la mia memoria fa ogni tanto. Ed è dunque, riproverò Pietro, gli disse, lungi da me, santo. Il famoso lungi da me, eccolo. Lungi da me. Ho sbagliato, eccolo lì, il famoso lungi da me, cioè va via da me. Che poi è ridicolo, perché gli dice vai via da me e quello un minuto dopo è ancora lì. Sì, perché se gli dice vai via da me, come mai nelle pagine dopo è ancora lì? Cioè, quindi la traduzione è sbagliata. Primo modo per capire che la traduzione è sbagliata. Lungi da me non va bene, perché se gli dici vai via, quell'altro doveva andarsene. Allora, perché dopo una pagina, due è ancora lì? Cioè, o mi spieghi perché è tornato, perché è un testo narrativo il Vangelo di Marco, o mi spieghi perché è tornato, o vuol dire che la traduzione è sbagliata. Perché è ancora lì, cioè... Quindi non è lungi da me, ma va dietro a me. O piso mu. E quindi questo termine va ben interpretato. Cioè, va dietro di me nel senso, sempre. Mettiti alla mia sequela. Sì, torna, come dicessi, torna al tuo posto. Torna al tuo posto. Va via è una cosa, cioè vai e non farti più vedere. Vai dietro a me vuol dire torna al tuo posto, che è dietro di me. Perché? Rivolgendosi a Pietro o a Satana? A Pietro. Pietro. Satana è Pietro che viene chiamato Satana. È Pietro che viene chiamato Satana, perché poi gli dice... E spiega perché. Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. È quello lì. L'essere... lo chiama Satana perché non pensa secondo Dio, e Satana è colui che separa, colui che divide. Quindi, che cosa comanda Gesù a Pietro? Di andare dietro lui, di non intralciare il suo cammino, perché è una questione spaziale. Pietro che fa? Gli si mette di traverso, vuole intralciare il cammino di Gesù, vuole mettersi davanti a Gesù e dirgli quello che vuole fare, quello che deve fare. È lì l'errore di Pietro. Buona fede, poveretto, cioè, ma cosa mi annuncia la passione, la morte? Ma che fa sto qua? Poveretto in buona fede. Però non si accorge che quella maniera lì intralcia il cammino di Gesù, gli si mette davanti e gli dice che cosa deve fare. È quella la faccenda. E Gesù cosa fa? Lo rimette al suo posto. Deve tornare ad essere il discepolo che lo segue. Quello è il posto di Pietro e di tutti gli altri che sono guardati. Quello è il loro posto, non davanti, è dietro. Vedete però che io ho cambiato titolo. Qua c'è un titolo diverso. La seconda chiamata nell'orizzonte della passione. Buona intuizione nel libretto che ho letto. Qua è come ci fosse un'altra chiamata qua dentro. Prima abbiamo visto la prima chiamata, mentre stavano riassettando le reti e lavorando. Qua è come ce ne fosse un'altra, cioè la seconda chiamata. Stavolta siamo nell'orizzonte della passione. E se nei primi 8 capitoli lo sfondo era l'annuncio del regno, qui lo sfondo è la passione. È come se ci fosse un'altra chiamata qua dentro. Eccolo qua. Per Pietro e gli altri discepoli si tratta di una nuova chiamata, non più nell'orizzonte del regno, tutto sommato abbastanza comprensibile e confortante. Sì, l'annuncio del regno di Dio tutto sommato è abbastanza comprensibile e confortante, sapere che il regno di Dio è vicino. Ci siamo? Sì, è comprensibile, è confortante, non è difficile, ci siamo? L'annuncio della passione e della morte implica un netto cambiamento di mentalità, paura e angoscia. Sì, questa è più difficile, questa chiamata qui. È veramente più difficile per i discepoli. Infatti gli annunci della passione, morte e risurrezione di Gesù nel Vangelo di Marco sono 3, e dopo tutte le volte, se voi andate a vedere, i discepoli sono protagonisti di difficoltà nella comprensione. Tutte le volte, perché fanno proprio fatica a entrare in questo orizzonte. Ancora, vedete, sempre nell'orizzonte della passione, lo scarto tra la logica umana e divina qua è più forte, è molto più forte rispetto all'annuncio del regno. Qua lo scarto tra la logica umana e quella divina è molto molto più ampio, ed è Gesù stesso a dirlo: tu pensi secondo, non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Se trova Pietro, riflette il modo di pensare degli uomini che mira successo alla gloria e va in contrasto col punto di vista di Dio, che nel suo disegno prevede per il Messia un cammino di sofferenza e di morte. È Dio stesso che prevede per Gesù Messia un cammino di sofferenza e di morte. Solo in questa maniera può giungere alla risurrezione. Questo è il cammino del Messia. La semplice confessione della messianicità di Gesù è ancora un'espressione di una fede sfocata. Pietro dice: tu sei il Cristo. Sì, va bene. Vedete, è una manifestazione di una messianità regale, in un certo senso. Quello aveva in testa probabilmente Pietro. Un messia regale, un messia potente, un messia vittorioso, un messia forte, un messia che cavalca le difficoltà della vita e della storia. Probabilmente quello aveva in testa. Ma adesso gli tocca fare un altro passo in avanti, degli altri passi in avanti molto più complicati. La sua fede deve crescere e può diventare adulta solo se riconosce il Messia, quel Messia regale lì che lui voleva, nel crocifisso. È un po' più dura. Riconoscere il Messia che lui aveva in testa nel crocifisso è un altro paio di maniche, più difficile. Perseguire questo Messia che è crocifisso e che è anche figlio di Dio, perché siamo nella seconda parte del Vangelo, la prima dedicata a Gesù Messia, la seconda a Gesù figlio di Dio, ci sono delle altre condizioni. Quindi Pietro, discepoli e il lettore, adesso che cosa è invitato a fare? È invitato a riconoscere Gesù come Messia, ma un Messia che è crocifisso. Ci siamo? È un altro paio di maniche. Adesso è invitato a riconoscere un Messia che è crocifisso e che contemporaneamente è figlio di Dio. È un po' più dura. È un po' più dura mettere insieme messianicità, figliolanza divina, croce, passione, crocifissione, morte, risurrezione. È un po' più dura mettere insieme tutto questo. E questa è la seconda parte del Vangelo di Marco. Le condizioni per seguire Gesù sono diverse. Adesso cambia, le condizioni del discepolato sono diverse e si sono scritte esattamente qua. Prego. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Vi faccio notare una cosa. Qua di confessione di Pietro è a 8:27-34. Noi stiamo, adesso abbiamo appena letto il testo immediatamente dopo, Esatto. Cioè l'annuncio della passione, morte e risurrezione, e poi ci sono delle condizioni, nuove condizioni per seguire Gesù. Immediatamente dopo ci sono. Il gioco si è fatto più duro ed è diverso. Prima c'è l'annuncio della passione, morte e risurrezione, poi ci sono le nuove condizioni per seguire Gesù. Ci siamo? Quali sono queste condizioni? Gesù tratteggia le condizioni della sequela secondo tre imperativi: rinnegare se stessi, prendere la propria croce, seguirlo. Proviamo ad andarli a vedere. Rinnegare se stessi. Cioè, cosa vuol dire? Non vuol dire mortificare la propria persona. Ce l'hanno venduto così, o sbaglio? Ce l'hanno venduto così. Non significa quello. Non significa buttare via talenti e capacità personali. Non significa quello. Significa prendere le distanze da sé, guardarsi dal di fuori, decentrarsi. Non avere, non portare in avanti una vita focalizzata sul proprio io. Cioè, il tuo io è importante perché la tua persona è importante, Gesù e Dio ti hanno voluto così. Però, un attimino, staccati, guardati dal di fuori anche con l'aiuto degli altri e vedi se puoi, come si può dire, orientarti in una maniera migliore. Ci siamo, è quello che ti chiedo, rinnegare se stessi, significa prendi un attimino le distanze da te stesso, guardati un attimo dal di fuori. Se c'è qualcosa che puoi valorizzare di più e qualcosa che invece puoi smussare un pochino, ok? Perché alle volte non è solo questione di smussare qualche lato, è anche questione di mettere in evidenza qualche altro. Ci siamo, che magari, di cui magari non ti fidi, ma che in realtà è un pregio. Qual è il fine? Il fine è salvare la vita. Una vita focalizzata sul proprio io, una vita persa. Una vita invece che è alla sequela di Gesù e che è focalizzata su di lui, è una vita guadagnata. Cioè, è un discorso molto, come si può dire, non solo molto importante, ma di peso, fondamentale. Guardate le domande, che vantaggio c'è per un uomo se questo guadagna il mondo intero e perde la vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? La questione è dove spendi la tua vita finché abbia valore, è una questione di fondo proprio. Cioè la tua persona, la tua vita, le tue esistenze sono importanti, ma come fai a renderla ancora migliore, a non perderla, a dargli un senso, a dargli uno scopo affinché tu stesso sia contento? Quello, tu stesso alla fine dica ho speso bene la mia vita. E quella è la questione fondamentale, dove spendere la propria vita, affinché tu stesso ne sia contento. Primo consiglio che ci dà Gesù è quello di, un attimo, distaccati da te stesso, non mettere te stesso al centro, ok? Il tuo essere è un valore, ma mettilo un attimo da parte, distaccati un attimo. Secondo imperativo, prendere la propria croce, anche su questo ci hanno venduto di tutto, giusto o sbagliato? Di tutto, hanno fatto passare di tutto dietro questa frase, o sbaglio? Di tutto, cose positive e cose negative, molto spesso, di tutto hanno fatto passare dietro questa frase. Prendere la propria croce, innanzitutto se tu prendi qualcosa vuol dire che è un atteggiamento attivo e non passivo, non significa subire, ce l'hanno venduta così, nella tua vita ci sono queste difficoltà, te le devi portare, quella è la tua croce. Insomma, un attimo, vediamo di che cosa si tratta, mi viene da dire, ci siamo, pensiamoci almeno sopra, capiamo un pochino come occorre agire, non è che si può solo sopportare passivamente, ci siamo, il Vangelo non è il Vangelo della sopportazione passiva, perché prendere significa agire attivamente. Qua prendere la propria croce probabilmente significa questo, accogliere la propria vita con le sue responsabilità e vivere come persone pacificate e amanti. Probabilmente prendere la propria croce significa prendere su di sé il giogo dell'amore. Probabilmente significa quello. Ci siamo, cioè, accogliere la propria vita con le sue responsabilmente, con tutto ciò che in essa accade, e cercare di vivere come persone pacificate, equilibrate, per quanto sia possibile, e persone che amano. Quindi prendere la propria croce significa prendere il gioco dell'amore, probabilmente, prenderlo su di sé attivamente. Probabilmente, significa quello, questa cosa. Seguirlo. La seguela non è uno sforzo moralistico di perfezione. Non è che per seguire Gesù dobbiamo essere sempre più perfetti, più moralmente eccessi. Dopo, cioè quello è dopo. Seguire Gesù significa scegliere una relazione, uno stare, l'abbiamo visto all'inizio, ci siamo, che porta a un profondo cambiamento interiore. Se ti relazioni con Gesù, stai con Lui, cerchi di comprenderlo, cerchi di mettere in atto la sua parola, per quello che puoi nella tua vita. Non è facile per nessuno, perché nessuno di noi è, come si può dire, già un prodotto finito. Come le statue, no? Michelangelo diceva, da statua la tiro fuori dal blocco, cioè già, devo solo tirarla fuori dal blocco di pietra, devo solo tirarla fuori. Nessuno di noi è già la statua di Michelangelo finita, bisogna lavorarci un pochino su. Ma questa è una conseguenza. Una conseguenza dello stare con Gesù, della relazione con Lui. Allora, se io sto con Gesù, riesco a comprendere il suo annuncio, cambio qualcosa di conseguenza nella mia vita. Non il contrario. Non è che per stare con Gesù prima devo cambiare la mia vita. Mi sono spiegata? Cioè non è che prima c'è, c'è lo sforzo moralistico e dopo puoi stare con Gesù. È il contrario. Prima c'è lo stare con Gesù, la relazione con Lui, poi c'è il cambiamento. Ok? Questo è anche San Paolo. San Paolo è così. Lettera ai Romani, lettera molto lunga, ci sono 12 capitoli in cui ti spiegano la portata della passione, morte, resurrezione sull'uomo. Che cosa cambia per l'uomo? Il fatto che Gesù sia passato attraverso la passione, morte e risurrezione. 12 capitoli per spiegartelo e non sono tanto facili. Ma poi alla fine te ne mette 3 per dirti, beh, allora, una volta che hai capito questi 12 capitoli, queste sono le conseguenze morali e sono gli ultimi 3. Ci siamo? Questo è indicativo, perché Paolo dice, prima viene l'annuncio cristiano, la passione, morte, resurrezione di Gesù, ciò che Gesù ha fatto per noi, dopo viene quello che tu devi fare in concreto, non girare le due cose. L'essere viene prima dell'imperativo. Spiegata? Anche qua uguale. Prima viene lo stare, poi viene il cambiamento nella tua vita. Non fate l'opposto. Ci hanno insegnato l'opposto, ma non va bene. Ci siamo? Quasi alla fine. Cieco di Bezzaia. Allora, questo brano, vedete dov'è? È a 8:22-26, cioè prima della confessione di Pietro. Teoricamente bisognerebbe fare il cieco Bartimeo, perché è quello che c'è dopo nei capitoli verso la fine del Vangelo di Marco, cioè cieco Bartimeo, che è proprio l'esempio della fede, diciamo. E non bisognerebbe fare questo qua, perché questo sta prima della confessione di Pietro. Però mi sta tanto simpatico. Mi è sempre stato simpatico. Prego. Giunsero a Bezzaida e gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli disse: «Vedi qualcosa?» Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente. Fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa e lo rimandò a casa sua. Brano strano, brano molto strano. Innanzitutto è proprio del Vangelo di Marco. Cioè c'è solo lì. C'è solo nel Vangelo di Marco, non c'è negli altri sinottici, se non andate a cercarlo, non c'è. C'è solo lì. E lui, e prima caratteristica è questa. C'è solo nel Vangelo di Marco. E quindi gli esegeti cominciano a raddrizzare i capelli perché dicono: ops, come mai questo ha messo questo brano qui? E c'è solo in lui. Ci sono dei versetti propri del Vangelo di Marco, non sono tanti. E bisogna raddrizzare le orecchie. Seconda cosa, è l'unica guarigione che avviene in due tempi. Che fa? Sbaglia! Gesù non è capace di guarire il cieco? Va per tentativi, è mica capace, scusate, la fa in due tempi, non è capace, scusate, è chiaro che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di simbolico, perché vedete, glielo portano, e gli pregano, lo pregano di toccarlo, lui che fa? Gesù prende il cieco per mano, guarda la gentilezza, e lo conduce fuori dal villaggio, lo porta via in privato, e qua comincia a guarirlo. Primo tentativo, gli mette della saliva sugli occhi, gli impone le mani, erano tipici modi dei taumaturghi dell'epoca. gli chiede: vedi qualcosa? L'altro dice: ho sfocatino, vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano, dice, vedo delle piante che camminano, non sarà mica piante, saranno persone. Carina la risposta. L'altro gli impone di nuovo le mani e senza rispondere, vedete che non c'è la risposta, il cieco gli dice: ci vedo chiaramente, è guarito, vede da lontano distintamente ogni cosa, vede le piante e vede le persone e le distingue, e poi lo rimanda a casa sua e gli dice anche non passare per il villaggio, va là che è meglio, perché altrimenti ne sarebbe uscito un pandemonio, ma questo è un altro capitolo della storia. Perché la guarigione in due tempi? Qualcuno ha detto che rappresenta le due chiamate nell'orizzonte del regno e della passione, le due parti che abbiamo visto. Prima la chiamata nell'orizzonte del regno e poi la chiamata nell'orizzonte della passione. Implicano due visioni, due comprensioni, due capacità di intendere. Implicano. Vediamo la preveniente grazia di Dio, perché Gesù lo porta fuori molto gentilmente. Vedete il rapporto personale tra il discepolo e Gesù, la guarigione avviene in privato, ci tiene la privacy Gesù, vedete che avviene in privato, quindi indica chiaramente il rapporto personale. Poi il miracolo è progressivo, non è istantaneo, quasi come Gesù si adattasse alle difficoltà del singolo. La visione è progressiva, quasi come Gesù si adattasse progressivamente alla capacità di vedere del singolo, pian pianino, si adatta, ok? Non tutto subito, no, è troppo, un po' alla volta è meglio. Per vedere distintamente la realtà vera, che è il regno di Dio, e è quel regno di Dio che si attua nella passione, morte e risurrezione di Gesù, occorre stare dinamicamente con Gesù, altrimenti vedete alberi che camminano. Attenzione, è una questione di vedere la realtà. Se non volete vedere alberi che camminano, occorre stare con Gesù. Allora lì si vede la realtà del regno di Dio che si realizza innanzitutto nella passione, morte e risurrezione di Gesù, perché quel regno vicino è Gesù stesso, nella sua passione, morte e risurrezione, è il punto della vicinanza maggiore. Altrimenti cosa vediamo? Vediamo alberi che camminano. E quindi non vediamo la realtà vera, ma vediamo quella degli alberi che camminano. Sono arrivata alla fine, questa è la sintesi finale. Abbiamo visto l'annuncio del regno di Dio, abbiamo visto il vedere di Gesù, ve lo ricordate Gesù che vede i discepoli? Abbiamo visto la chiamata, abbiamo visto lo stare con Gesù per scoprire un'identità, abbiamo visto le tre traversate, le difficoltà di discepoli nel cammino di fede, abbiamo visto l'altro annuncio della passione, morte e risurrezione, e abbiamo visto le condizioni della sequela, le nuove condizioni della sequela: rinnegare se stessi, prendere la propria croce, seguire Gesù. Questo è un pochino il cammino del discepolo nel Vangelo di Marco. Fine. Grazie. Grazie. Suggerimenti per la lettura, questo da cui ho preso alcuni spunti, è questo qua. Letto? Non l'hai letto. Il cammino del discepolo, no, non l'ho letto. L'ho beccato in castagno, non lo becco mai. Di chi è? È di questo spagnolo, non è male. No, cammino del discepolo, edizione di San Paolo. Non è niente di impossibile, si legge tranquillamente, è facile, eh. Proprio facile, non è proprio divulgativo al massimo, non è neanche enorme, si legge abbastanza facilmente, e da lì ho preso un po' di spunti per questa cosa qui. Docente di Nuovo Testamento a Salamanca, presso la Pontificia Università di Salamanca. Sì, è spagnolo, ma ha scritto anche altri libri, non sono male, è abbastanza chiaro anche, eh? Anche nei libri più complessi è abbastanza chiaro, avrei voluto di essere abbastanza chiaro. Prego, domande, se sono capace, volentieri.